Voci di piccola impresa. Idee anticrisi di Anna Marino. Verso l'Expo 2015. Benvenuti a Voci di piccola impresa, idee anticrisi. Bisogna puntare sulla ricerca, frase più volte sentita e ripetuta, ma metterla in pratica è difficile. Lo sanno bene grandi e piccole imprese e bisogna seguire binari precisi per arrivare a destinazione. Noi abbiamo scelto due esempi, due buone pratiche nella ricerca che hanno reso più sostenibile il campo che hanno innovato, quello medico e quello sportivo, e che hanno vinto molti premi e sono stati riconosciuti da più di una istituzione. Abbiamo verificato però anche sul campo quali sono i criteri di scelta di queste buone pratiche, prendendo ad esempio una giuria come quella del premio voluto dalla famiglia Marzotto e intitolato al grande imprenditore. Criteri per vagliare più di 1000 progetti e scegliere una startup. E li abbiamo chiesti a chi ha presieduto la giuria, Riccardo Illi, di una grande famiglia imprenditoriale, per un premio all'innovazione di un'altra famiglia imprenditoriale italiana. I criteri che vengono usati nella giuria Marzotto sono uguali per tutti, naturalmente. Si tiene conto anzitutto della capacità innovativa del singolo progetto, subito dopo della realizzabilità, e poi si va a vedere quali sono le ricadute sociali, sia in termini di utilizzo dei prodotti o servizi che vengono proposti, sia sul piano dell'occupazione, ovviamente riferita all'Italia. Ed ecco l'esempio della vincitrice, nata 2 anni fa come spin-off di Fondazione Filarete. Tensive sviluppa protesi alternative a quelle in silicone che permettono una migliore qualità della vita del paziente. Federico Martello spiega l'idea e la buona pratica di Tensive, che va anche oltre i 300.000 euro conferiti come vincitore assoluto del premio Gaetano Marzotto. Il nostro progetto è nato circa 6 anni fa, all'interno dei laboratori di Fondazione Filarete, che è l'incubatore biotech dell'Università di Milano, dove io ho conosciuto i miei attuali soci, che sono Alessandro Tocchio, Irini Gerges e Margherita Zambrenizza, tutti ricercatori nel settore biologico, chimico o ingegneristico, e abbiamo avuto modo di collaborare a diversi progetti, tutti in ambito medicale. Grazie a questa collaborazione si è creato di fatto un team molto unito e con in comune la voglia di trasferire nel mondo clinico le tecnologie su cui stavamo lavorando. Quindi in realtà tutti quanti eravate della stessa risma, della stessa esperienza, avevate tutti quanti delle competenze. Che età avevate? Avevamo tra 28 e 32 anni. L'idea di Tensive è nata quando rispetto al vostro momento di squadra? Dopo circa 3 anni abbiamo avuto un'evidenza di laboratorio molto interessante, un materiale da noi sviluppato, un polimero, un poliuretano, era in grado di favorire la rigenerazione naturale del tessuto adiposo, e questo lo abbiamo dimostrato con cellule di diversa origine, di tipo murino, quindi da topo, ovino e anche umano. Ecco, da questo, che è stato diciamo un esperimento tecnico, è nato qualcosa che è ben decifrabile, questa idea di Tensive. Un'importante innovazione che andrebbe a sostituire nel nostro caso una tecnica come quella delle protesi in silicone, che è vecchia di almeno 35 anni. Una rivoluzione possibile ed è un'applicazione pratica che noi capiamo molto bene, soprattutto un'applicazione pratica che porterebbe alla salute delle donne. Per arrivare a questo, ma soprattutto per mettere in piedi diciamo la vostra idea che aiuterebbe appunto le donne ad avere delle protesi più sane, più salutari, che cosa avete dovuto fare? Cioè, chi vi ha aiutato fin dall'inizio e chi vi sta aiutando adesso? Allora, fin dall'inizio l'Università di Milano, ovviamente l'Università degli Studi di Milano, attraverso l'incubatore che è Fondazione Filarete, che ha di fatto finanziato anche le nostre ricerche fin dall'inizio e che ci sta aiutando tuttora. Negli ultimi mesi, diciamo, anche l'associazione Progetto Marzotto, grazie a questo premio, che non è solo un premio, ma in realtà è effettivamente una piattaforma di lancio. Perché? Per due motivi principalmente. Perché il primo motivo ovviamente è l'importo del premio, che è consistente e permette di avviare o accelerare l'attività imprenditoriale, quindi con l'acquisto di strumentazione, affitto spazi e così via. Poi inoltre nel premio è compreso anche un percorso formativo in ambito di gestione aziendale, che per una startup è molto utile. Il secondo motivo è la grande eco mediatica, che è sempre vitale per un'impresa, sia quando è sul mercato, sia quando, come nel nostro caso, è la ricerca di finanziamenti per portare a termine lo sviluppo e la commercializzazione del prodotto. Questo è l'obiettivo, no? Lo sviluppo e la commercializzazione del prodotto, perché i finanziamenti appunto servono adesso. Quindi qual è il vostro modello di business appunto per rivolgervi al mercato? Il nostro modello di business è abbastanza semplice. Noi adesso stiamo sviluppando un unico prodotto, che è questa protesi mammaria, che dovrebbe arrivare sul mercato fra circa 4 anni, quindi dopo le prove precliniche e cliniche sull'uomo. Il mercato target è quello ovviamente delle protesi mammarie che sono utilizzate per mastoplastica additiva e ricostruzione dopo mastectomia. Il mercato totale a cui ci rivolgiamo vale 3,8 miliardi di dollari e il paziente dovrà col nostro prodotto sottoporsi solo a un'operazione, perché poi la protesi si degrada e lascia spazio al tessuto naturale del paziente. Quindi il paziente non dovrà più tornare periodicamente dal chirurgo nell'arco della vita per la sostituzione, come avviene con le protesi in silicone. Un altro dispositivo che innova un settore tradizionale come quello sportivo e che è anche una buona pratica è X-Matrix. Per nuotatori da indossare in corsia, registra i parametri di allenamento e fornisce riscontri audio live. Un allenatore virtuale per i campioni del nuoto. Ha vinto 50.000 euro della sezione Dall'idea all'impresa del premio Gaetano Marzotto. Una performance da sportivo, oltre ogni resistenza umana, come racconta Andrea Rinaldo di X-Matrix, che ha avuto la folgorazione in notturna. Me lo ricordo perfettamente perché era durante un esame dell'università. Io avevo il bimbo in braccio durante la notte che continuava a piangere, mi teneva sveglio, mi obbligava a pensare. Pensavo che probabilmente sarebbe stato pure l'ora di cambiare lavoro e fare qualcos'altro, e mi è venuta l'idea di realizzare un progetto relativo al mondo del nuoto a cui stavo pensando da tantissimo tempo. Curiosità, perché il bimbo in braccio e durante l'esame dell'università, che competenze, che mestiere fai e soprattutto quanti anni hai? Beh, io adesso faccio il CEO in X-Matrix, adesso ho 34 anni. All'epoca ero ingegnere di prodotti in una multinazionale, mi occupavo appunto di sviluppare prodotti relativi al mondo dell'automotive, stavo facendo un executive MBA presso una business school, quella della MIP, e quindi avevo già deciso di uscire da un percorso strettamente tecnico per andare in un percorso più manageriale, e diciamo che quest'idea è stata l'occasione che mi ha fatto lasciare il vecchio lavoro, che è un posto fisso, tempo indeterminato, quindi tutte le certezze del mondo, per iniziare questa avventura. Contest dell'idea è stata la, diciamo, la sveglia notturna per i bambini, che molti capiscono, ma la tua giovane età era particolare e ovviamente era anche un momento in cui ti ha fatto capire che potevi ancora scommettere, diciamo, sul futuro tuo e quello della tua famiglia. La cosa importante è chi vi ha aiutato, chi ha aiutato te e soprattutto come e in che modo. Avere una bella idea implica anche doverla realizzare. In questo il premio Marzotto, che abbiamo vinto nella sezione dall'idea all'impresa nel 2014, è stato uno tra i primi a scommettere su di noi con questo premio di 50.000 euro. Abbiamo vinto nel corso del 2014 tantissimi riconoscimenti, tra cui il bando del Comune di Milano Fabric, il bando di Superpartes, Superstarter a Brescia. Siamo stati riconosciuti come la startup sportiva più promettente del 2014, quindi questo ci ha dato tantissimo morale, oltre ad avere i mezzi economici per poter iniziare la nostra avventura. Il nostro modello di business è molto semplice: noi produciamo questi due dispositivi per il nuoto, rivolti a nuotatori professionisti e nuotatori amatoriali, quindi si tratta di dispositivi fisici che vengono proposti attraverso vari canali a seconda di quello che può essere l'utente target, quindi attraverso direttamente la squadra di nuoto, gli allenatori di nuoto, ma anche i negozi specialistici vengono proposti e venduti. Non è solamente un dispositivo hardware, è anche una piattaforma software che noi invece abbiamo deciso di fornire gratuitamente sia agli allenatori per la gestione più completa della squadra, ma anche agli utenti per andare a monitorare le proprie prestazioni. Mercato, diciamo, che avete previsto? Siamo italiani, quindi il primo piede ce l'abbiamo in Italia, però il nostro ambizione è quella di diventare globali da subito, quindi da subito noi inizieremo la commercializzazione in Italia, Stati Uniti e Gran Bretagna. A livello mondiale si stima che i nuotatori siano superiori ai 100 milioni. Al di là dei numeri, come mai il nuoto? Una vita fa ero nuotatore anch'io. E ora sviluppate le vostre ricerche sostenibili. Se volete ascoltare le precedenti storie o scriverci le vostre, Voci di Piccole Imprese su Twitter con l'account @vocipmiradio24, su Facebook alla pagina Voci di Piccola Impresa, il blog e il download sono su www.radio24.it. Grazie alla collaborazione di Silvi Boccaletti, un saluto da Anna Marino.